Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. L'abbiamo mandato Pavia. Ah, durante il terremoto. Ed è tornato. Sì, è sopravvissuto. Benvenuti a Möbius, adesso i titoli e poi incominciamo. Una casa di 4 piani trema a Pavia, ma è un esperimento per capire come costruire edifici antisismici. È il grande tema di attualità sul futuro dell'informatica, il cloud computing, ovvero tutti i nostri dati lontani dal nostro computer si gestiranno in remoto. Ci arriva da Diego la domanda di questa settimana. È possibile che i sosia abbiano antenati in comune? L'esperto risponde. Robin Dunbar, antropologo di Oxford, afferma che per tutti gli umani il numero massimo di persone frequentabili è sempre lo stesso. Luca, un nostro ascoltatore, ci descrive la tecnologia che gli ha cambiato la vita, il monitor Braille, lo strumento che ha finalmente concesso l'utilizzo della rete ai non vedenti. Pavia, qualche settimana fa, prove generali di terremoto, attenzione che sta arrivando la scossa, forte. Urca che botta! Hai visto? Michele, che potenza era? Era 1,5 volte il terremoto dell'Aquila. Quindi Michele Manghi, il sopravvissuto. Michele Manghi della redazione di Möbius. Buonasera Michele. Buonasera. Allora, descrivici un po' che cosa c'era lì, che cosa hai visto. Sono stato all'EU Center, che è un centro di studio per l'ingegneria sismica, dove in un grande capannone è stata montata una casa di 4 piani, interamente in legno, con tecniche molto moderne, anche di contenimento energetico, e l'hanno fatta tremare. Tutta di legno? Tutta di legno, con moduli prefabbricati prodotti da un'azienda altoatesina. Ma ecco, non per risparmiare in legno. No, tutt'altro, sono le case modulari molto efficienti dal punto di vista energetico, che insomma si stanno diffondendo abbastanza, soprattutto nei climi freddi o un po' più avanzati dei nostri dal punto di vista del risparmio energetico. E lì c'è stata una sperimentazione, diciamo così, antisismica, per vedere se questa casa appunto resisteva ad un terremoto così potente. Esatto, all'EU Center, che è una fondazione che si occupa appunto degli studi di ingegneria antisismica, hanno una grande piattaforma vibrante che è capace di simulare terremoti di intensità. Questo qui, dicevi all'inizio, era una volta e mezza l'Aquila. Era 1,5 volte l'Aquila. Se si misura il carico sopportato dalla struttura, è stato caricato di 1G, cioè il peso della struttura è stato riversato sulla struttura stessa in forma di vibrazione. Qualche tempo fa avevamo parlato di un esperimento simile, sì. Casa Sofi del CNN, in cui appunto era stato effettuato una sperimentazione di questo tipo, ma in questo caso la tecnologia messa in campo e anche forse le dimensioni della palazzina stessa, sì, erano molto più ingenti, quindi insomma si sta lavorando per migliorare questo tipo di sistemi. Esatto, è la prima volta che viene fatta vibrare una casa così alta. E così grande, sì. Cosa si vede, insomma? Si vede che si sposta. Si sposta proprio. Si sposta un po'. Devo dire che non si ha la sensazione che sia un'operazione pericolosa per la casa, perché la casa resta su, ovviamente, è stata fatta apposta. Con tutti i suoi interni, ci sono dentro anche dei mobili, no? L'ultimo piano è stato arredato anche con dei manichini e dei mobili, alcuni fissati a parete, altri no, proprio per valutare quali cadono, quali possono essere i danni sugli abitanti della casa. Tu hai fatto 2 domande importanti a un tecnico, un esperto, il direttore credo di tutto l'esperimento. Esatto, l'EU Center ha un direttore che è Michele Calvi, un ingegnere che insegna alla Scuola Superiore di Pavia, e abbiamo fatto 2 domande importanti. La prima domanda riguarda il tema delle assicurazioni, o meglio quali ricadute economiche in futuro potrebbero esserci dai grandi disastri sismici. Adesso sul tema assicurazioni sta diventando importantissimo. Molti si domandano fino a quando il patto non scritto fra lo Stato e i cittadini, tale per cui dopo un terremoto lo Stato paga tutto, verrà mantenuto. E il trasferimento alle regioni di molte competenze enfatizza questo problema, perché le regioni stesse si domandano dove andranno a prendere le risorse. Quindi il tema dell'assicurazione più o meno obbligatoria verso le catastrofi naturali è un tema che sta riprendendo molto, molto vigore. Assicurazioni fatte da cittadini, fatte da comuni, fatte da regione, non è molto chiaro qui chi è che dovrebbe assicurarsi. Saranno probabilmente i condomini e i proprietari immobiliari che obbligatoriamente dovranno avere una tutela economica relativa alla propria proprietà. Potranno anche essere forse assicurazioni collettive fatte da enti locali, però sicuramente avrà una ricaduta economica sui cittadini alla fine. In effetti lo sappiamo che non è molto chiaro questo tema, no. È molto di attualità anche. Anche perché i costi di un terremoto alla faccia, cioè quanto paghi di assicurazione ogni anno. E lì il problema è capire qual è la probabilità del terremoto, perché come raccontava proprio Michele Calvi, l'importante, i politici dicono, è non nel mio mandato, esatto. Che succeda pure, ma tra 50 speriamo anni. Speriamo, no, non quando ci sono io. Ecco. No. E invece la seconda domanda che ci dicevi? La seconda domanda che vi dicevo era quali sono gli attuali obiettivi dell'ingegneria antisismica? Oggi ci sta rendendo conto che in realtà il problema del cosa succede dopo l'evento, nel senso di abbiamo bisogno di usarli gli edifici, non sto parlando solo di ospedali, sto parlando che il problema dei senza tetto diventa un problema economico devastante. Ecco allora che se questo cambia, cioè se la prestazione non è più quella, arriviamo a quella soglia per far stare in piedi l'edificio, allora cambia tutto, perché nel primo caso faccio stare in piedi l'edificio, io faccio dei nodi trave pilastro più duttili e riesco a, però ho dei grandi spostamenti, quindi crollano i tamponamenti, si rompono i pavimenti, gli impianti possono non funzionare. Se invece il problema è io voglio che dopo un evento forte l'edificio sia, se non immediatamente abitabile, quantomeno reparabile molto rapidamente, allora la tecnologia deve rispondere a questa domanda. E questo direi è chiarissimo, in effetti bisogna che le case non semplicemente stiano in piedi quando c'è il terremoto, ma anche dopo, perché è un danno grosso quello che bisogna sopportare. Michele, questa sperimentazione è stata fatta, come abbiamo detto, su un edificio di legno, ma qualcosa si sta facendo anche per gli edifici, insomma, nostri tradizionali, quindi fatti ovviamente anche di cemento armato, eccetera, eccetera, mattoni e così via. Certamente le tecnologie stanno andando avanti molto. Il problema fondamentale è che i costi per rendere antisismico una cosa già costruita sono alti, mentre sono sostanzialmente irrisori i costi per fare cose anche con tecniche tradizionali, ma con criteri antisismici. Ex novo. Comunque è una bella patata bollente questa, soprattutto per un paese che ha vecchie città, vecchie paesi. Esatto, infatti il problema fondamentale è il recupero dei centri storici, quello è veramente una cosa che costerà tantissimi soldi. E purtroppo l'abbiamo visto sulla nostra pelle. Ma noi stiamo vedendo. Grazie Michele. Grazie Michele, ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Cari ascoltatori e ascoltatrici, pronti con gli SMS perché è arrivato il quiz. Fra poco vi parleremo di un antropologo inglese che con le sue ricerche ci dice che noi umani non possiamo avere più di un numero abbastanza preciso di frequentazioni amicali, dai grandi amici al giornalaio di quartiere. Qual è questo numero? 150, scriverete 150, oppure 250, oppure 300. E dove scriverete? Beh, con il solito SMS al 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Di quanti amici abbiamo bisogno? Frivolezze e curiosità evoluzionistiche di Robin Dunbar, edito da Raffaello Cortina. Questo libro offerto da librerierizzoli.it e fra poco ne parliamo. Chi di voi ha già sentito parlare di cloud computing? Non lo so, non mi importa, cerchiamo di parlarne adesso perché è una vicenda molto interessante, è un grande fatto tecnologico che sta per arrivare, è già arrivato, sì. Insomma, però probabilmente nel futuro sarà un dato molto grosso. E ne parlo con Roberto Siagri. Buonasera Siagri. Buonasera a tutti. Che è amministratore delegato di Eurotech. Eurotech è un'azienda, lo dico io perché non lo può dire lei, tra le più importanti, più di frontiera in Italia, con una grande capacità di ricerca e innovazione. State mettendo in campo dei progetti progetti significativi sul cloud computing e quindi siete degli ottimi testimonial per venire qui e raccontarci un po' di che cosa si tratta. Anche lo facciamo perché ci sono un po' di dubbi, di controversie che io penso sia meglio sgomberare. Però, insomma, proviamo a dare una definizione di cloud compute. Cloud, nuvole, computing, direi che è una roba che se traduciamo direttamente in italiano non significa niente, però il suono è bello, le nuvole, vabbè, però ci dica un po' com'è. Sì, in realtà il concetto di nuvola nasce dal fatto che scompare la materialità del computer da sotto il naso e si sposta da qualche altra parte. In realtà poi di quel virtuale in qualche posto è anche fisico. Sì, potremmo... cioè i dati che abbiamo sul computer vanno da un'altra parte. Dove vanno? Vanno da un'altra parte e su grossi data center che poi vengono ridistribuiti in funzione della domanda ai vari utenti che ne fanno uso. E in qualche maniera è un po' come se facessimo l'esempio dell'energia elettrica. Nessuno si sogna oggi di costruirsi la centrale elettrica per accendere le proprie lampadine fuori di casa, ma fa un contratto, gli viene agganciato un filo e su quel filo lui si connette e ha dell'energia. Qui si fa un contratto, arriva un doppino che magari è la DSL anziché una rete Ethernet e lì ci si attaccano i computer. È un buon esempio, lei dice, cioè ricordiamoci che se volessimo vedere la televisione senza allacciarci alla rete, uno dei genitori dovrebbe pedalare per far andare l'apparecchio, perché così una volta. Sì. Invece la riceviamo da fuori e ci sentiamo abbastanza sicuri. Certamente, no? Sì, il tema questo qui è un tema che va proprio analizzato e va anche in qualche maniera sfatata la paura di avere dei dati non presenti in sito. Prima di tutto bisogna tenere presente che la maggior parte dei problemi nasce dal fatto che non si fanno le copie di backup e il cloud garantirebbe in automatico questo tipo di copia di backup. Non si tiene presente che la maggior parte delle fughe di informazioni avviene perché i dati vengono rubati localmente o da dipendenti infedeli o da persone che vogliono effettivamente rubarteli. Nel cloud è molto più difficile sapere dove sono i dati. I dati possono essere criptati all'origine, arrivano in maniera tale che nessuno può riuscire a capire, se non ha i codici di decriptazione, il loro significato, e in più vengono automaticamente salvati in più posti distribuiti intorno al pianeta. L'unica cosa che oggi può in qualche maniera creare delle problematiche potrebbe essere il fuori servizio, il fatto che se non c'è sufficiente banda larga, non ci sono sistemi sufficienti di interconnessione. Certo. Qui lì ci può essere un problema. C'è stato qualche caso recente di blackout, no? Amazon ha avuto dei problemi. La sostanza comunque è che tutti i dati che noi adesso maneggiamo sul computer andrebbero da un'altra parte, il nostro computer diventa un terminale che dialoga con macchine gestite, per esempio, da gente come voi. Ecco, però appunto da molte indagini, anche fatte in Italia, viene fuori che sono cifre intorno al 62-63%, non si fidano, hanno paura a dare i dati fuori. Però giustamente lei diceva attenzione, perché invece i guai da dati dentro sono estremamente elevati e c'è molta più garanzia se li protegge qualcuno che per mestiere cosa fa? Protegge i dati. Esattamente. Esatto. Ma se vuole, questo qui è il solito paradigma di tutte le innovazioni nel loro inizio. Mi ricordo anche la storia dell'ibrido del mais, quando fu inventato negli Stati Uniti, e l'azienda che lo inventò si smise di produrre le semi normali e produsse solo ibridi del mais, e scoprò miseramente che nessuno voleva comprarli, che nessuno si fidava. Certo. Per cui c'è il problema dell'innovazione è che è così. Sì, ci pensiamo, è iniziata tutta assolutamente così, in modo un po' grezzo, però poi contenendo delle idee che, andando a fondo, adesso non diciamo sempre, però in fondo nell'80% dei casi si sono rivelati migliori. Sì. Ma infatti all'inizio fa sempre fatica, e poi però ci sono delle curve di adozione molto rapida. E secondo me, se uno andrà a vedere fra un po' di anni l'adozione del cloud, scoprirà che la crescita è senza precedenti. Se uno va a vedere i dati di Amazon, tra l'utilizzo dei loro infrastrutture di data center per la parte commerce rispetto alla parte servizi su cloud, la parte servizi su cloud sta già superando la parte di e-commerce. C'è tutto poi questo problema anche di una qualità maggiore del servizio che si può ottenere a costi che possono essere decisamente inferiori, cioè, e questo forse è un messaggio importante che possiamo dare a tante aziende, soprattutto quelle di dimensioni piccole ma che però maneggiano tanti dati. Con questi sistemi che voi siete in grado di erogare, riesco ad avere servizi su questi dati che mi costerebbero molto di più se li avessi lì. No? Assolutamente, certo. Infatti uno degli scogli per molte piccole e medie imprese per passare alla massiva informatizzazione delle imprese è proprio il costo iniziale. Mm. Ecco, il cloud ha il vantaggio che elimina quasi totalmente il costo iniziale e si va su un pay per use, e per cui in funzione di quanto si usa si paga. E c'è sempre, hai sempre una macchina aggiornata, hai sempre una macchina allo stato dell'arte e non devi preoccuparti, tra l'altro, di tenere in piedi questa infrastruttura su base locale, su base aziendale, che ha dei costi. Sicuramente le grandi imprese questo problema ce l'hanno marginalmente, le piccole e medie invece non potrebbero avere quella qualità se non così. Sì, diciamo tutta che senza il cloud Facebook non ci sarebbe. Certo. Come in tutte le tecnologie, si evolvono anche nel momento in cui nascono. E mi pare che strutture in realtà come la vostra stiano anche lavorando su come far dialogare in modo ancora più efficiente le macchine tra di loro che hanno i dati, perché lì ci potrebbe essere un cloud di serie migliore, insomma, più di serie A. Sì, direi che noi principalmente della parte cloud ci interessa proprio l'ambito delle macchine, come creare dei network sociali di macchine, e come riuscire a far sì che tutti questi dispositivi si possano interconnettere e possano parlare tra di loro in maniera semplice. Non teniamo presente che oramai ci sono più macchine di umani da interconnettere e si stima che entro il 2020 ci saranno 50 miliardi di macchine da collegare. È chiaro che bisogna trovare dei sistemi semplici per ridurre i costi delle interconnessioni e per anche massimizzare il loro utilizzo. Insomma, stiamo vivendo l'era dei grandi dati. Quello dai dati si fa con i dati si fa innovazione. Del resto, il paradigma della società della conoscenza è che le idee sono il materiale grezzo di partenza. Certo. Le idee si rappresentano con dati, per cui grandi dati significa grande valore. Però quando si ha grandi dati bisogna poter anche navigare dentro i dati e c'è bisogno di calcolo sempre più importante, che non si può pensare che ognuno si possa in qualche maniera costruire o precostituire all'interno della propria azienda. Ecco che allora il cloud dà questa possibilità di navigare dentro una miniera enorme di dati, da lì ricavare informazioni, però bisogna anche portarli i dati dentro e noi ci occupiamo per cui di portare dentro i dati nella nuvola e poi quali imprese potranno su questi dati costruire servizi elaborando i dati e dai dati tirando fuori informazioni che si possono avere. E qui in conclusione possiamo ricordare che Eurotech ha una lunga tradizione di macchine per il calcolo complesso. Sì. Voi nascete proprio per gestire grande complessità di dati. Sì. Vabbè, qui adesso le nuvole cominceranno a piovere, la pioggia va bene, fertilizza, vediamo cosa salta fuori. Sì. Grazie, Siagri. Grazie a voi. Grazie a lei. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Io e te praticamente non siamo uguali. Eh no, non siamo sosia. Ma se fossimo sosia? Per sfortuna, non si sa. Ma se fossimo sosia? Ecco. Allora, ecco la domanda. La domanda è all'incirca questa e ci arriva da Diego Massari di Arcisate. È possibile che i sosia abbiano antenati in comune? Ecco, questa è la domanda di Diego. È una domanda molto carina che dietro ha anche un certo ragionamento. E quindi per rispondere abbiamo dovuto chiamare un genetista, insomma. Il nostro esperto è Roberto De Fez, che è ricercatore presso l'Istituto di Genetica e Biofisica del CNR di Napoli. Buonasera, De Fez. Buonasera. Buonasera. Ecco, la domanda del nostro Diego è questa. Che ci dice? Allora, certamente abbiamo antenati comuni tutti, nel senso che qualche decina di migliaia di anni fa, quando ci siamo mossi dall'Africa, siamo arrivati al punto che le popolazioni che poi daranno origine alla nostra specie erano ridotte a poche centinaia di individui. Quindi abbiamo certamente nella storia dell'umanità antenati comuni. E quindi siamo tutti un po' imparentati, però insomma... Siamo tutti assolutamente questo imparentati. Questo una decina di migliaia di anni fa. E un po' più avanti? E un po' più avanti ancora, di nuovo. Gli studi sui cosiddetti isolati genetici, cioè popolazioni che hanno scarsi contatti con il mondo esterno. Per esempio ci sono studi molto approfonditi in Italia, sia in Sardegna sia nel Cilento, di popolazioni che non hanno avuto grandi flussi migratori, non sono porti di mare, non ci sono stati incontri tra esseri, diciamo, che venivano da altri paesi. hanno continuato a, diciamo, a incrociarsi tra di loro, a spostarsi tra di loro. E quindi anche quindi in quel caso. Generare, in questi casi, che sono ormai oggetto di approfonditi studi sulla genetica delle popolazioni, si capisce che soltanto risalendo ai matrimoni in chiesa, quindi ai registri delle varie parrocchie, grandi paesi che adesso hanno migliaia e migliaia di abitanti, derivano tutti da 20 progenitori comuni. Però, scusi De Fez, questo non è il caso dei sosia, però. Il caso dei sosia non è assolutamente questo. Quindi, diciamo, io sto rispondendo prima alla domanda se abbiamo parenti comuni. Assolutamente. Praticamente tutti hanno parenti comuni, perché se risaliamo in quest'albero genealogico, nel giro di 200 anni siamo tutti imparentati. Detto ciò, non è vero che il sosia debba avere per forza un antenato comune. Anzi, io sospetterei che così non è. Sono altri eventi che possono determinare la similitudine fra due organismi. Infatti, due, com'è possibile che due persone che magari non si conoscono minimamente o anche dall'altra parte del globo si assomiglino certe volte tantissimo, in maniera impressionante? Molto più, se posso dire, di quello che succede all'interno di una grande famiglia. Ognuno di noi conosce una grande famiglia con tanti, diciamo, zii e tanti figli di questi zii. Io, a mia memoria, non ho ricordo di qualcuno che si assomigli all'interno di una grande famiglia. Quindi anche con parentele strettissime è falsa, secondo me, l'idea che i sosia si assomiglino tra di loro. I fattori che giocano non sono solo fattori genetici, per cui quello che stiamo dicendo è lo stesso gene presente in due consanguinei, chiamiamoli così, determina la somiglianza fra le due persone, ma sui geni agisce l'ambiente e la cosiddetta epigenetica, cioè la regolazione di come questi geni si esprimono e in che modo. Allora, se consideriamo alcuni aspetti di queste regolazioni, per esempio, due gemelli non monozigotici non si assomigliano per nulla, è vero, eppure vengono esattamente dallo stesso padre e dalla stessa madre. Quindi si vede come i fattori, appunto, descritti come epigenetici, cioè regolazione al di là della eredità genetica, determinano dei fattori che determinano una grande variabilità della popolazione, e di conseguenza non c'è nessuna ragione di sospettare che sia necessario quel patrimonio genetico e quindi un genitore in comune per avere somiglianze. Quindi il sosia, secondo me, è semplicemente un evento casuale in cui è come se tirassimo fuori un'estrazione al superenalotto e in due punti assolutamente non correlati della Terra si estraessero esattamente gli stessi 8, 10, 20, 50 numeri probabilmente, che determinano una certa morfologia del naso, della bocca, dei capelli e di quant'altro. E casomai anche cose anche molto più banali, cioè l'espressione del volto, che può essere determinata da aspetti ancora più banali, che non hanno bisogno di raffinate derivazioni genetiche, insomma. Sì, perché lei dice su centinaia di milioni di persone, poi non è che un naso può avere 8 milioni di variabili, a un certo momento che un naso somiglia a un altro, una bocca, no? degli occhi, è possibile. Esattamente, quindi noi per esempio vediamo tra molti figli di una stessa famiglia che c'è un'impronta di famiglia, ma mai io ricordo a mia memoria di aver pensato che due erano dei sosia. Non ricordo due fratelli identici, ricordo molto più di essere io stesso stato diciamo descritto come un sosia di qualcheduno di più conosciuto, perché casomai era più vicino a quel gruppo di definizione, l'espressione del volto, degli occhi, casomai il fatto che ha pochi capelli e quindi assomigliava a qualcuno con pochi capelli, tanto per dirne una. Sì, sì, è tutto giocato sulla casualità. Va bene, tutto grazie. Tutto giocato sulla casualità. Grazie professore, buon lavoro. Buon lavoro, grazie, arrivederci. A voi. Arrivederci. Stefano Morigi, buonasera. Buonasera Federico. E benvenuto qui a Möbius. Di quanti amici abbiamo bisogno? No, non ti ho chiamato per farti questa domanda, ma forse l'hanno già, se lo ricordano gli ascoltatori, perché abbiamo fatto il quiz poco fa, è il titolo di un libro. L'autore è... L'autore è Robin Dunbar, professore di antropologia evoluzionistica all'Università di Oxford. E tu l'hai invitato all'interno di una serie di incontri di diritto e tecnologie che si stanno tenendo all'Università Bicocca di Milano, tu in collaborazione anche con un tuo collega? Sì, con il professor Andrea Rossetti. Andrea Rossetti. Allora, di quanti amici abbiamo bisogno? È una domanda che appunto appare come domanda sul libro, ma dentro il libro c'è pure una risposta. Sì, la risposta è 150 approssimativamente. E così abbiamo anche risposto, esatto, al nostro quiz. 150, di quanti amici abbiamo bisogno, ma non ne possiamo avere di più? Sì, in teoria di quanti amici abbiamo bisogno, quanti amici possiamo avere? Possiamo, ecco, avere. Poi bisogna intenderci un po' sulla parola amicizia, si intende una relazione sostanzialmente stabile, dove i protagonisti di questa relazione conoscono le reciproche identità, ovviamente, e hanno una frequentazione sostanzialmente assidua, capace di vincere, come dire, gli eventi sociali e il silenzio che la vita a volte ci mette però, tra di noi. Entriamoci un attimo dentro però. Dal grande amico fino però anche all'ortolano che bene o male tu incontri una volta alla settimana o l'edicolante quasi tutti i giorni, cioè non sono amicizie forti, è una frequentazione, è la stabilità della frequentazione, è la stabilità della frequentazione, sì, che la continuità se vuoi di una relazione. Sentiamo un attimo Dunbar proprio all'inizio della sua conferenza, perché dice una cosa curiosa. I can maybe start off by thinking in terms of the current fashion for especially Facebook. So when the internet was first created, if you like, the technologists. Allora lui cosa dice? Quando internet è nata, e poi se pensiamo a un fenomeno come Facebook, è stato interpretato da tutti come qualcosa che avrebbe enormemente allargato la nostra possibilità di frequentazioni amicali. Esatto, secondo Dunbar è una sorta di illusione che le tecnologie possano ampliare quel numero di amicizie che secondo lui è strutturale alle potenzialità della nostra stessa specie. Aumenta il bacino di utenza, ma non la possibilità delle relazioni stabili che noi possiamo intrattenere con i nostri simili. Ecco, questo mi pare che è un punto delicato, poi entriamo anche in un'altra parte più sperimentale. Non è che gli 150 devono restare sempre quelli, possono cambiare, però quello che lui dice è che insomma se ne arriva uno 151 ne deve uscire un altro. Assolutamente, poi c'è un caso anche particolare di amicizie particolari. Se qualcuno si fidanza, il costo emotivo e anche in termini di tempo che tu dedichi al fidanzamento c'è un prezzo. Ha un prezzo e perdi perlomeno un altro amico o un familiare nei termini delle frequentazioni, così come le tematizzavamo prima. Lui mi pare che escludesse da questo tipo di statistiche quei personaggi che hanno per lavoro delle grandissime frequentazioni, no? Tipo giornalista oppure le rockstar. Beh, ecco. Sì, l'utilizzo professionale dei social network è altra cosa. È altra cosa. Tutti noi abbiamo sul nostro profilo di Facebook più di 150 contatti. Io per esempio passo i 4.000, ma questo non significa che ho 4.000 amici, ho 4.000 contatti. Oh, esatto, perché poi lui è andato a fare delle ricerche su Facebook e ha scoperto, chiedendo alla gente, che di fatto le frequentazioni reali, anche per chi ne ha 2.000, sono intorno a quelle sostanzialmente cifre. Sostanzialmente sì, pensa che è anche verificato attraverso il numero di cartoline di auguri natalizi mandati, oltre che attraverso Facebook, e in realtà anche in quel caso il numero dei destinatari effettivi non supera i 150. Sentiamo ancora Dunbar, perché c'è una parte del suo lavoro che è tosta, sperimentale. Esatto. How do the size of these compartments of the frontal cortex compare to... Ecco, lui parla di corteccia frontale e di ampiezza di questa corteccia frontale, ha fatto ricerche in questo campo. Sì, il numero di Dunbar sostanzialmente è l'identificazione di una relazione tra le dimensioni della neocorteccia, cioè la parte del cervello superficiale esterno che nei riguarda primati, il nostro pensiero, sì, certo, cosciente, nei primati non umani ma anche nella nostra specie, e le dimensioni dei gruppi frequentati da queste specie. Il rapporto tra le due dimensioni dà appunto 150, che insomma, è il numero degli amici che potremmo avere. È sorprendente, leggetevi il libro di Quanti amici abbiamo bisogno di Raffaello Cortina, i conti sembrano tornare. Sì. Grazie Stefano. Grazie mille. Va bene, sappiamo quasi nulla della materia oscura, ma forse del perché il picchio non ha mal di testa, questo forse riusciamo a saperlo. È Barbara Gallavotti che mi suggerisce questo tema affascinante. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Quindi ci siamo. Sembra che finalmente dopo anni di ricerche ci siamo. C'è una ragionevole ipotesi che spiega perché il picchio non ha mai mal di testa. Chi l'ha tirata fuori? L'hanno tirata fuori due scienziati cinesi, anzi per la precisione uno dell'Università di Pechino e l'altro dell'Università di Hong Kong, e l'hanno anche pubblicato su una rivista prestigiosa che è PLOS ONE. Certo. Importante. Dunque, vediamo un po', perché i picchi non hanno mal di testa? Loro hanno ripreso con telecamere di alta precisione dei picchi mentre picchiettano. Hai un'idea di quanto picchietta veloce un picchio? Guarda, non ho il numero esatto, ma l'ho letto una volta e sono rimasto assolutamente stupito. Quant'è? A parte il numero di picchiettate, ma ogni colpo impatta, diciamo, il legno con una velocità di 21 km all'ora. Quindi, che non è per niente poco. No. Però sono anche tantissimi battiti, no? Esatto, moltiplicalo per migliaia di picchiettate e capisci che la povera bestia effettivamente un po' di mal di testa dovrebbe avercelo. Oh, qui una battutaccia direbbe, ma questo uccellino in testa non ha niente, quindi... E questa potrebbe essere una spiegazione, forse il picchio non è noto per essere l'uccello più intelligente del pianeta. Vabbè, però... Però, insomma, in realtà sembra che il suo segreto non sia solo avere poco cervello, quanto avere un cranio conformato in una maniera particolare, con una giusta distribuzione di tessuto più denso e più spugnoso, quindi ammortizza i colpi, e sembra che l'altro punto fondamentale è il fatto che il becco, la parte superiore e la parte inferiore del becco hanno lunghezze diverse. Ah, perché questo potrebbe avere influenza? Non ce lo spiegano al momento? Non ce lo spiegano, effettivamente è curioso, chissà. Però è la parte da capire. Loro dicono che comunque entrambi questi fattori sono cruciali e siccome forse si rendono conto che riceveranno poca gratitudine dai picchi per questa loro scoperta, ci dicono anche che in realtà il loro studio servirà a prevenire ferite alla testa a noi umani, perché per esempio si potranno studiare caschi più adeguati e così via. Vabbè, senti, non sarà molto intelligente, però in questo caso ci darebbe una bella mano. Sì, in fondo darebbe un grosso contributo all'umanità. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La qui presente Chiara Albicocco, sì, ciao Chiara, presente. Sei ritornata, conduce da un paio di settimane qui a Radio 24 alle 18.30 una curiosa trasmissione, velocissima ma densissima, che si chiama Progress. Faticosissima da montare. Ed è una trasmissione dedicata alle tecnologie, come si dice in gergo, top down, quelle che incominciano costosissime, come era una volta il cellulare, che costavano 8.000 euro, oppure addirittura costose perché arrivano dallo spazio, dove ci sono budget assolutamente inimmaginabili per il mercato, e però poi passa qualche anno, qualche decennio e arrivano da noi tutti. Sì, le famose tecnologie che diventano per tutti. Diventano per tutti, infatti questo è il sottotitolo della trasmissione. Bene, però in questa trasmissione, intorno a questa trasmissione, noi stiamo anche chiedendo agli ascoltatori che ci dicano... Sì, che ci dicano qual è stata la tecnologia o l'innovazione che ha rivoluzionato la propria vita, oppure quella che ancora non c'è ma che desidererebbero. Abbiamo ricevuto diverse mail, diversi riscontri dagli ascoltatori, e proprio venerdì è andata in onda, secondo me, una testimonianza molto interessante di un ascoltatore che ci ha scritto e che quindi di invitarlo anche a Mebius, perché mi sembrava che il tema fosse molto interessante, quindi anche per gli ascoltatori, e che avesse bisogno di un po' più di tempo per essere descritto. Esattamente così. E il nostro ascoltatore è qua con noi, Luca Spaziani. Buonasera Spaziani. Buonasera. Allora, lei ci ha scritto che la innovazione alla quale lei dà più importanza nella sua vita è un lettore di monitor di computer, quindi per esempio internet. Un display, sì, un praticamente. Display per non vedenti, perché lei è un non vedente, e questo dispositivo le restituisce in caratteri braille quello che appare sullo schermo. Quindi praticamente le ha dato accesso a internet, quello che prima penso non potesse invece accadere. Sì, questo dispositivo mi ha dato accesso ad internet e a tutte le funzionalità più comuni di un personal computer dotato di sistema operativo, e quindi parliamo anche di videoscrittura e parliamo di elaborazione anche di fogli di calcolo e certo, di questo genere. Proviamo a descriverlo proprio come apparecchio, in modo che sia chiaro ai nostri ascoltatori, perché può sembrare strano che una roba di questo genere funzioni. Come è fatto? Sicuramente è una cosa abbastanza insolita da vedere, me ne accorgo quando lo porto in giro, insomma, le persone mi vedono utilizzarlo e la domanda più comune è che cos'è e come funziona. Come funziona, ecco. Infatti. Questo apparecchio è composto da un display Braille, appunto, detto anche più comunemente barra Braille, formata da un numero variabile in base al modello di celle, ciascuna delle quali corrisponde ad un carattere, quindi diciamo di caratteri. Sì. Ciascuno di questi caratteri è dotato di 8 punti Braille, dei quali si compone l'alfabeto Braille, appunto, e che servono per rappresentare tutte le lettere, i simboli del codice ASCII, ecco, diciamo i simboli e le lettere che si fanno comunemente con un... Senta, però vorrei essere un po' più preciso. Noi tra l'altro qui abbiamo davanti delle immagini. È una specie di tastiera molto corta. Una barra. Una proprio. Barra molto una corta. Barra. Infatti, c'ha un display, ha un display che però può essere abbastanza lungo, e però le celle a cui lei faceva riferimento, se non sbaglio, vuol dire che sotto ogni cella ci sono proprio delle puntine meccaniche che riescono a darle quello spessore che ha il carattere Braille, no? Allora, sotto ogni cella, appunto, ci sono 8 punti che vengono, diciamo, sollecitati ad alzarsi da degli impulsi elettrici per formare ciascuno una lettera. Come diceva giustamente lei, la lunghezza di questo display, quindi il numero di caratteri che lo compongono, è variabile. Si va da display molto corti, quindi di 12 caratteri, fino a display lunghi anche 80 caratteri. Quindi diciamo una riga scritta. Una riga dello schermo, sì, si arriva a coprire al massimo una riga. Naturalmente, appunto, la porzione di testo che viene mostrata sulla riga è di gran lunga più piccola rispetto a tutta quella presente su una videata e sul monitor. Per cui ci sono poi dei tasti posti in genere a fianco o sotto il display, dipende appunto dai vari modelli, che permettono di scorrere tutto lo schermo del computer e quindi di leggere, permette di scrollare come una pagina, insomma, di internet. Ecco, la cosa interessante, Spaziani, è che questo tipo di display è applicabile, è attaccabile a qualsiasi tipo di computer, anche un computer portatile, perché si attacca semplicemente con l'USB. Esattamente, i display più moderni ormai da anni utilizzano questo standard di collegamento, che è appunto l'USB, e che li rende interfacciabili con un qualsiasi personal computer, sia esso un desktop, un portatile, un... Certo, poi chiaramente dovrà esserci un software all'interno che codifica questa cosa. Esatto, c'è un software che fa il lavoro di traduzione e di invio alla barra Braille del testo, che poi viene appunto mostrato in Braille. Però diciamo che di fatto... questo dispositivo è utilizzabile su qualsiasi personal computer. Senta Luca, ci sono anche dei sistemi che leggono la pagina e quindi le darebbero l'audio, ma lei ci diceva prima dell'intervista, lei preferisce di gran lunga invece il Braille. Perché questo? Questo può essere interessante proprio per capire come si relaziona con i contenuti. Sì, diciamo che il software che gestisce questo dispositivo Braille è anche in grado di emettere dei suoni attraverso una sintesi vocale che appunto vocalizzano il testo presente sullo schermo. Io personalmente utilizzo invece la barra Braille come sistema di interazione con il PC, perché ho imparato il Braille quando ero molto piccolo, alla scuola materna, e diciamo che leggendo sul display Braille, quindi passando il dito sui puntini della riga Braille, mi sembra di avere un contatto un po' più diretto con la macchina. Mi sembra di interagire in modo più stretto con il computer, mentre quando mi capita per qualche motivo di utilizzare la sintesi vocale è come se qualcun altro appunto mi leggesse quello che c'è sullo schermo, e quindi io mi sentissi un po' più lontano, un po' più estraneo al computer. Certo, poi se uno vuole rileggersi una riga è molto più duttile, certo. Io personalmente, per quanto mi riguarda, faccio molta meno fatica e soprattutto opero molto più velocemente sul computer con il display braille rispetto, sì, rispetto alla sintesi. Ma quanto legge velocemente? Cioè legge quasi un testo di 10 righe, in quanto tempo lo legge lei con questo? Ma senso? Direi che la lettura è a velocità pressoché normale. Poi magari, ecco, dipende dalla situazione, può dipendere da varie cose, perché diciamo che chiaramente il dito scorre sul display e cerca chiaramente un po' di anticipare quello che è scritto. È una cosa istantanea, parliamo di millisecondi, chiaramente un processo rapidissimo. È chiaro che quando capita la parola strana, lunga, chiaramente c'è un attimo di esitazione per capire cosa c'è scritto, ecco. Però diciamo che per testi normali la velocità può essere assimilata, associata a quella di un lettore vedente, ecco. Ecco, questo tipo di dispositivi ci diceva che sono in continua, chiaramente, evoluzione, per fortuna. Quali sono un po' il futuro di queste tecnologie? Perché lei mi diceva che ci sono buone applicazioni anche su altri ambiti, soprattutto sul cellulare. Dunque, sì, l'evoluzione è stata notevole perché ha riguardato prima di tutto la grandezza di questi dispositivi, cioè si è partiti da dispositivi abbastanza grandi che, diciamo, potevano essere utilizzati con computer da tavolo, ecco, quindi con desktop, e quindi una linea, diciamo, evolutiva ha riguardato le dimensioni. Si sta cercando di fare dispositivi sempre più piccoli, più leggeri, più maneggevoli. Certo, l'iter insomma tecnologico è come quello del computer, come quello degli altri dispositivi. Cammina parallelamente. Sì. L'altra linea di evoluzione sta riguardando appunto l'interazione con i cellulari. C'è un numero sempre maggiore di questi dispositivi sul mercato dotato di Bluetooth e quindi con possibilità di interagire appunto col cellulare. Sul cellulare deve essere installato chiaramente un apposito software, uno screen reader, per interagire con il display braille, e in questo modo è possibile leggere in braille quello che è scritto sul display del telefonino. Alcuni dispositivi braille sono dotati anche di tastiera braille, non soltanto di display. Quindi questo, certo, significa che, per esempio, nel caso dell'interazione con un cellulare, gli SMS, così? Esatto, esattamente. Sarà possibile non solo leggere quello che c'è scritto sul display, ma anche scrivere, quindi scrivere SMS, far partire una chiamata, ecco, cose di questo genere, quindi l'interazione con l'apparecchio completa. Esistono già? Sì, esistono già. Ah, ecco, sì, quindi esistono. Sono in continua evoluzione, probabilmente poi diventeranno anche di misure, insomma, di un cellulare tradizionale. Praticabili, certo. Certo, certo. Grazie, grazie mille Spaziani. Grazie a voi. Arrivederci, a presto. Quando si inventano cose troppo importanti, grandi rivoluzioni, ed è tutto ovvio che quello che ne viene fuori è tutto il contrario di tutto. Pensate alla ruota, trasportare pesi era una fatica immane e la ruota lo rese tremendamente più facile, poi consentì, abbinata alla trazione animale, di fare viaggi più lunghi, ma servì anche per tirar sull'acqua meglio dai pozzi. Ma la ruota fu anche immediatamente applicata in quei micidiali, per allora carri da guerra, che gli antichi Titi, e siamo prima degli egiziani, misero al centro delle loro milizie, per non dire poi che non si dà artiglieria senza ruote. Non dobbiamo quindi sorprenderci se un oggetto come il cellulare abbia i suoi lati oscuri, e qui ora vi raccontiamo dei modelli più recenti, quelli che quando li giri, opla, ruota pure lo schermo. Il meccanismo funziona grazie a uno strumento che si chiama celerometro. È un dispositivo che sente i cambiamenti di movimento di un oggetto, per dirla semplicemente. C'è nell'airbag, per esempio, se la pressione del corpo sulla cintura di sicurezza è molto rapida, e questo significa che l'auto sta subendo quella forte decelerazione, no, che si ha in caso di incidente, di urto, ecco che l'accelerometro si innesca e libera l'airbag protettivo. La sensibilità dell'accelerometro si può tarare. In un cellulare la semplice rotazione mette in funzione questo dispositivo, e il dispositivo genera un segnale elettrico e si ha la rotazione dello schermo. Ora, alcuni esperti del settore dicono che si potrebbe creare un altro marchingegno che avverta, che senta le vibrazioni determinate dal battere dei tasti su una tastiera. Il meccanismo è complesso, ma sembra funzionare all'80% dai primi esperimenti. In pratica, il cellulare posto di fianco a una tastiera, ed è quello che molti di noi fanno arrivando in ufficio, no? Attenzione, ecco, con il suo accelerometro, questo cellulare cattura le vibrazioni trasmesse al tavolo dalla percussione della tastiera, calcolando la distanza da cui le vibrazioni provengono. Se il cellulare è per esempio un posto sulla destra, ecco che le vibrazioni delle A saranno diverse da quelle delle P, che sta tutta a destra. Risultato: se ti vendo un cellulare che a tua insaputa ha dentro questo accelerometro, ecco che io riesco a recuperare tutto quello che scrivi. Chiara, abbiamo finito Möbius? Sì, ricordo, purtroppo. 18:30 18:30 dal lunedì al venerdì. Ciao a tutti, ci sentiamo per 7 giorni. A presto.